Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Insergante, il traghettatore, buongiorno. Cominciamo con una notizia che potremmo anche definire positiva: risorse che arrivano per nuovi e aspiranti imprenditori. È un'iniziativa della Camera di Commercio di Como che, attraverso un percorso assistito di 4 anni, fornisce consulenza tecnica e manageriale soggetto al parco scientifico tecnologico Como Next di Lomazzo, ma soprattutto ha dato disponibilità a investire fino a un valore massimo di 50.000 euro e di inserire queste aziende nell'incubatore. E parliamo adesso di Consorzio Libera Terra Mediterraneo. Ne parliamo con Aldo Soldi, che è direttore di Coopfond in questo caso. Direttore, buongiorno. Buongiorno. La prima cosa che le chiediamo è di definire il concetto di libera, che non è soltanto, come dire, un termine generico, ma è qualcosa di specifico. Sì, in questo caso per libera si intende l'associazione che fa capo ad Adunciotti, che da anni ormai intraprende iniziative, prima di tutto per l'emancipazione dalla mafia, dalla criminalità organizzata, ultimamente anche sul versante della corruzione. Sono sorte nel nostro paese delle cooperative che aderiscono a Libera, oltre che naturalmente alla Lega delle Cooperative, che lavorano su terreni confiscati alla mafia. Ecco, noi ci parliamo oggi perché voi state andando avanti in un progetto di, come dire, di ottimizzazione delle risorse e di rafforzamento attraverso l'aggregazione. La cooperativa Libera Terra ne compendia già alcune, le vuole dire lei quali sono e perché vi siete messi insieme? Ma il punto è che queste cooperative nascono con una fortissima spinta sociale, con una fortissima motivazione valoriale, però sono cooperative e al pari di ogni altra cooperativa si devono misurare sul mercato. Per misurarsi sul mercato hanno bisogno di strumenti. Queste cooperative lavorano in Sicilia, in Puglia e in Calabria, spesso fanno produzioni che si sovrappongono, dal vino alla pasta ad altri prodotti ancora. E allora hanno avvisato la necessità di creare un consorzio che ottimizzasse le produzioni e che ne favorisse la relazione con il mercato. Noi come Coopfond siamo entrati dentro a questo consorzio e abbiamo apportato un po' di denaro. C'è un'ultima cosa che volevamo sottolineare a chi ci ascolta: l'apertura di un nuovo settore decisamente in linea con quella che è la vocazione di questo paese, che è quello del turismo responsabile. Avete coniato un marchio, Libera il giusto di viaggiare. Ce lo vuole spiegare? Sì, i ragazzi e le ragazze che lavorano in queste cooperative si sono dati da fare per liberare dalla mafia alcuni casolari e sono diventati luoghi di turismo responsabile, per cui da ogni parte d'Italia si può andare in questi luoghi gestiti da queste cooperative che stanno a Corleone, che stanno in altri luoghi famosi per altre ragioni purtroppo nel nostro paese. Si può andare in questi posti, godere della vacanza e godere anche della compagnia di questi ragazzi e soprattutto godere di posti che sono ridiventati di nuovo patrimonio di tutti e patrimonio della legalità. Quindi stiamo parlando di agriturismo con un ingrediente in più, che è dare un esatto. contributo alla lotta alla mafia, di cui Libera è una bandiera. Esatto. Grazie direttore, buon lavoro. Grazie a lei. Chiudiamo con una notizia che riguarda ancora, tra l'altro, alimentare. Parliamo del Festival del Diritto al Cibo. Fino a domani, a Milano, alla Cascina Cuccagna, Acra e Terre di Mezzo hanno organizzato 5 giorni di spettacoli, degustazioni, incontri, laboratori dedicati all'alimentazione in tutti i suoi aspetti. Si chiama Cuminda e ha l'obiettivo di raccontare il cibo attraverso le suggestioni, i progetti di cooperazione con i paesi del sud del mondo, le filiere di distribuzione sostenibile, ma soprattutto le scelte di consumo consapevoli. È tutto per oggi, vi ricordo di cliccare su mi piace alla pagina Facebook di Ferrybot-Radio24, grazie ad Anita Panizza in redazione e a Matteo Comes in regia. A risentirci.